Conti per la cena perché fra un po' se magna, io ho già fame. Martina, bentornata. Grazie Lore, ciao a tutti e tutte. E 18:56 mi stanno regalando un rasta di Hank perché Sushi, oltre ad essere fonico, tecnico e super simpatico, è anche un... Chef. Esattamente. Quindi stiamo svelando dei segreti mai visti e mai sentiti. Oggi io non la chiamerei pillola perché non è che è uscita una pillola. O sbaglio, No, no? no, no. Però possiamo dargli un titolo a questa trasmissione, a questo programma di oggi, insomma, contestualizzarlo un minimo. Prego, Marti. Oggi parleremo di colonialismo e femminismo, quindi un puntatone Bene. ricchissimo, ricco di interventi soprattutto, e quindi state con noi, vi faremo compagnia sicuramente. Ma non dimentichi una cosa importantissima. Chi ci fa Certo. compagnia e non è fisicamente qua, ma lo è con Col delle onde sonore. sound, Esatto, vai. Lady J. E DJ Utopia oggi anche. La selecta è di entrambe, se non sbaglio. Poi magari diciamo cazzate, ma abituatevi. Sì, credo anch'io. Noi abbiamo Quindi. deciso di iniziare proprio la puntata con una canzone e non di mandarle dopo. Esatto, tra l'altro è una canzone che io avevo richiesto qualche giorno fa, sono molto contenta di risentirla. Vedi che è incredibile perché succede sempre questa cosa con lei. È assurdo, cioè Lei vi ci entra legge nella nel testa. pensiero, Sì, sì. Certo. è successo con Giulia con i Queen l'altro giorno, ti ricordi? Bene, quindi partiamo con... E Aretha Franklin. la canzone si chiama? Perfetto, Think. meno male che c'è Marti perché col mio inglese non andavate lontani. Quindi, Think, Ed è Aretha la versione Franklin. dei Blues Brothers. Esattamente, Meraviglioso. tutta per voi. Ma qua c'è Meme che sta impazzendo. Yeah. sparito? Cos'è sparito? Oddio, è sparito! Ciao Guglielmo, siamo vivi e vegeti. Sì, sì, sì, siamo vivissimi e andiamo avanti. C'è un po' di riverbero, ma cercheremo di toglierlo o di conviverci. Io sto facendo alla fine una visita quello. Oculistica praticamente. Attenzione, attenzione. La visita oculistica serve a Martina per introdurre quelli che sono i capitoli che andremo a toccare oggi insieme alle nostre compagne al telefono, perché questo programma è bello ricco proprio perché telefoniamo, andiamo a prendere la gente a casa. Il momento è molto particolare, quindi tra virgolette siamo un po' obbligati a farlo, sì. Però è interessante studiare anche questo strumento, insomma, possiamo certo. Varcare confini mai visti. Certo. Ci proviamo, insomma. Vai. Combattiamo la noia. Marti, la tua voce è più bella della mia, quindi tutto tuo. Allora, oggi, per farvi un po' di spoiler, sentiremo Maya, che ci racconterà del colonialismo italiano e le donne. E ha chiamato questo... Poi possiamo chiamarla pillola, no? Ma no, ma chiamiamola pillola, sì. Non è uscita questa... pubblicamente sulle pagine, però è una pillola. Ha chiamato questo pezzo di puntata, non so come dire. Sì, questo capitolo. Oh, questo capitolo. Italiani brava gente, che è un detto abbastanza famoso. E sentiremo Carlotta Cossutta, che credo ci stia già ascoltando, e Marie. Poi ci sarà anche una nuova compagna che oggi per la prima volta interviene, che è Martina. Io sono molto felice di sentirla dopo. E ci parlerà del colonialismo sulle donne e quindi la divisione sessuale del lavoro come forma di colonialismo sulle donne, per l'appunto. Queste donne, cioè che interverranno, queste fanciulle meravigliose, hanno fatto degli studi giganti, secondo me, su questo tema, perché è molto, molto complesso, molto, molto difficile, e quindi sono estremamente curiosa. Io, riallacciandomi un po' alle lotte che ci sono state negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi due, mi viene in mente la figura di Montanelli, se penso a tutto certo. Questo tema qua. Magari lo toccheranno, non si sa. Io credo di sì. Anche secondo credo me. Di sì. Anche secondo me. Che e... noi abbiamo salutato, tra l'altro. Chi? Montanelli. Sì, certo. Non noi e basta, in realtà certo. Tanta gente, anche dal sud al nord, dobbiamo dire, no? Quest'anno... Eh sì. Sono successe delle cose, insomma, per farci capire e ricordare realmente chi era Montanelli, da Palermo a Milano. Quindi durante la puntata magari raccontiamo anche che cosa è successo e perché. Esattamente. Vogliamo mandare un altro brano e poi facciamo la prima telefonata? Certo. Mandiamo un altro brano, guarda Marti cosa ti metto, voilà. Ringraziamo nuovamente le DJ per la selecta musicale e DJ Utopia. E ora parte Mr. Big Stuff con Gene Knight. Knight. Quello è giusto, giusto. È giusto, giusto, giusto. I want love in return. Oh, yeah. is a lesson, Mr. Big Stuff, you haven't learned. Mr. Big Stuff, tell me, who do you think you are, Mr. Big Stuff? You're never gonna get my love, Mr. Big Stuff. You're never gonna break my heart, Mr. Big Stuff. You're never gonna make me cry, Mr. Big Stuff. Tell me, just who do you think you are? Insomma, qua si balla e ci si diverte. Grazie alle DJ, grazie DJ Utopia per questa magnifica selecta che sta sfumando. Martina, stiamo chiamando? Sì, il mio telefono stiamo è chiamando. Attivo. Ora sentirai che qualità di suono. Perché hanno ha cambiato un cavo? Sì, sì, un cavo, abbiamo cambiato tutto. Che meraviglia. Ciao. Maya, benvenuta a Radio ZM. Maya, come stai? Bene, bene, vi rispondo da un'altra latitudine però finalmente. Vi rispondo da Bari. Wow, bentornata a Bari. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici devono sapere che l'abbiamo chiamata quando era a Londra ed è riuscita a fuggire. Sì, dagli Hunger Games. Esattamente. Ci vuoi raccontare del tuo esodo? Ma in realtà non è stato così traumatico come esodo per il semplice fatto che sono stata una delle pochissime fortunate ad essere riuscita a prendere quei voli all'Italia garantiti dalla Farnesina e dall'ambasciata. Ah. Quindi sono stati 12 ore di viaggio, ma comunque abbastanza tutelati. Cioè, nel senso, il mio percorso è stato semplicemente Roma, Londra-Roma, 11 ore di scalo e poi Roma-Bari. Da Bari non ho visto nessuno, non mi sono stata andata a vedere i miei genitori, ho preso un taxi e sono andata nel sottotetto dove mi sto quarantenando, nella mansarda, dove sono quarantenata. E in aeroporto com'era la situazione nei vari aeroporti che hai toccato? Ah, Fiumicino, desolata, cioè nel senso erano vuoti gli aeroporti e il nostro volo per Londra, diciamo, per assurdo la polizia era felice di vederci così distanziati e così pronti alle distanze di sicurezza. Noi li abbiamo guardati e abbiamo detto: guarda, aspettavamo solo questo, cioè a Londra dovevamo sputare addosso alle persone per farci spazio. Certo. E invece una volta arrivata a Bari mi hanno misurato la temperatura e ho dovuto firmare altri i diversi 7 decreti che nel frattempo si erano rinnovati nel giro di 12 ore, ma poi tutto tranquillo, cioè non ho sintomi, non ho nulla. Quindi sei tornata in Italia e ora riusciamo a sentirti anche più vicina in realtà. Siamo contenti. Sì, dai. Siamo contenti. Almeno Maya è tornata. Sì. Bene. C'è anche Marti, Adesso sì. Ti prende coraggio, si sveglia e parla. No, sono contenta anche perché ero un po' preoccupata della tua presenza a Londra, quindi cioè, mi fa piacere che tu sia a casa. Anche i miei erano preoccupatissimi. Immagino. Com'è il tempo, Bari? Parliamo di... Spero ci sia il sole. Il tempo? Guarda, ieri ha nevicato. Woo! Guarda, lascia stare qua. Pure, qua si gela, veramente. Ci saranno 6 gradi al massimo e però 0 la neve di notte. È bella. Sì, sì, ma anche a Bari è lo stesso, più o meno la situa. Va bene. Climatica. Bene. Come è nata questa puntata, Maya? Lo chiedo a te che sei la prima e anche perché, insomma, devi dirci allora, un po' di cose, secondo me. Questa puntata nasce da un sentito comune. Mm-hmm. Un sentito comune da parte di noi come collettivo, ma anche come tutte le altre persone che si sono ritrovate ad interrogarsi sulla mancanza di memoria storica per quanto riguarda il passato coloniale italiano, ma su tanti altri aspetti. Io direi che il processo di voluta obnubilazione di determinate parti del nostro passato storico sia una tattica voluta e dovuta. Basti pensare a quello che è successo anche con la questione dell'Unità d'Italia, cioè la nostra generazione, quella dei 93, 94, 95, è stata la prima ad aver studiato sui libri di scuola quello che si può dire e può essere chiamato lo stupro del Meridione, non l'Unità d'Italia. Purtroppo non c'è stato lo stesso processo di memoria storica su avvenimenti molto più vicini, ma anche molto più come incisivi per quello che riguarda la struttura normativa, ma anche del sentire comune, ecco, italiano. E infatti a tal proposito volevo iniziare proprio citando delle riflessioni di Paolo Gedolski, che è uno storico italiano, che appunto teorizza e parla della memoria pubblica e dice che la memoria pubblica è l'insieme delle immagini del passato che circolano nella sfera pubblica. Non si tratta solo di discorsi prodotti dalle istituzioni, ma anche di quelli attraverso cui sono i cittadini a interagire. Quindi comprende film, libri, programmi televisivi e così via dicendo. Sono testi pubblicamente accessibili che vengono ripresi, commentati e formano nel complesso i quadri entro i quali il passato viene compreso. Questa memoria svolge diverse funzioni. La più importante è quella di definire mano a mano la rilevanza di certi aspetti del passato o certi altri. Ecco, diciamo che per quanto riguarda il passato coloniale italiano, la memoria pubblica è stata abbastanza assente, come appunto questo passato fosse quasi irrilevante. Infatti si può dire che rispetto all'esperienza di altri imperi, quella italiana sia stata più breve e circoscritta, però è stata ampia, non è stata di certo ininfluente. Se rispetto ad altri paesi la differenza è soprattutto che l'esperienza italiana ha perso, cioè nel senso si è conclusa al termine della Seconda Guerra Mondiale, però diciamo non ha attraversato i dibattiti e i conflitti istituzionali che hanno accompagnato altrove le lotte per le indipendenze coloniali. Infatti, giusto per dare un po' di contesto storico per quello di cui andrò a parlare, si può dire che la presenza coloniale in Italia ha inizio negli anni 80 del XIX secolo e si protrae fino agli anni 40 del XX. Nel periodo di massima espansione comprendeva i territori oggi corrispondenti a Somalia, Eritrea, Etiopia e Libia. Si costruirono le strade, infrastrutture, però tutto, nonostante il mito appunto della missione civilizzatrice che legittimava l'aggressione, diciamo che la civiltà che noi italiani portammo finisce alle infrastrutture. Infatti i comportamenti testimoniati dalle più disparate fonti furono dei comportamenti predatori, furono ruberie, corruzioni, cioè la giustizia era esercitata a dir poco sommariamente. Addirittura nella guerra di conquista d'Etiopia gli italiani usarono addirittura l'irpite, che era una sostanza che era già stata bandita dalla Convenzione di Ginevra. Diciamo che durante l'occupazione gli italiani diedero prova di essere esattamente ai livelli dei propri simili coloniali imperialisti. Infatti fu in questi paesi che si misero appunto i presupposti delle leggi razziali fasciste. Ora, l'intervento che vado a fare oggi cerca di contestualizzare la figura della donna all'interno di questo contesto coloniale. Quindi si va a cercare di minare quella che è la retorica, la narrativa degli italiani di brava gente, e si va ad esaminare quello che voleva essere il ruolo della donna fascista all'interno delle colonie. Perché cosa è successo? Ad un certo punto si erano resi conto che per poter sostenere le teorie riguardanti la purezza della razza, eccetera, eccetera, non potevano continuare ad accettare figli di meticci dovuti a madamato, concubinaggio vario ed eventuale. Questi sono temi di cui, se volete, mi richiamate a fine puntata e ve ne parlo per altre 5 ore senza nessun problema. Però oggi appunto volevo analizzare questo vademecum di vita coloniale per la donna fascista, scritto appunto nel 1931 e analizzato dagli storici Goglia e Grassi negli anni 70, in cui ci hanno riportato appunto questa testimonianza. Questo vademecum si divide addirittura in 3 parti. Una parte generale, all'interno del quale si descrive la necessità e quelli che sono i prodigi di questa missione civilizzatrice e coloniale italiana. Poi abbiamo addirittura una parte di preparazione spirituale per la donna, e si conclude infine con i programmi, i miti e le realizzazioni che la studenta donna in colonia deve soddisfare. Allora, per non vi comincio a leggere appunto l'introduzione. La storia coloniale italiana ha aperto un nuovo capitolo di proporzioni immense. Per la prima volta essa ha visto sorgere un grande impero coloniale, la cui conquista non è solo vittoria di armi, ma gloriosa rivendicazione di ciò che era un diritto. Commento all'atere, quindi era un diritto quello di colonizzare, quello di stuprare le terre, sempre per italiani. Ritorno. La fede che questa vittoria ha creato in noi stessi deve necessariamente trovare una pronta realizzazione nel vasto programma coloniale al quale la nostra attività deve tendere con tutte le forze più temperate e sicure. La colonia non va considerata come un paese di fortuna e di avventure, ma come un campo d'azione, come una terra che deve sempre più legarsi alla madre patria, così da dare a ogni famiglia stabilita nell'impero la sensazione di un'unione materiale e spirituale con i fratelli lontani. La donna deve anch'essa considerarsi parte viva in questa conquista, in modo che il nome di ognuna possa essere inciso fra quelli degli artefici della creazione dell'impero. Il compito della donna italiana nella vita e nell'economia domestica coloniale è di per sé assai complesso e difficile. Lo è anche di più se si pensa che tale compito in Italia non fu mai discusso né trattato per il proprio interessamento, che purtroppo nel nostro paese si è avuto in passato per i problemi coloniali e perché le nostre vecchie colonie, Eritrea, Somalia e anche la Libia, non furono sino a ieri considerati, per ragioni che ora non è il caso di analizzare, come colonie di possibile largo afflusso di famiglie nazionali. In seguito alla conquista dell'Etiopia, terra di grandi possibilità agricole, industriali e commerciali, e al nuovo sviluppo che di riflesso prenderanno le varie attività nelle contigue Eritrea e Somalia, si rende veramente necessario che anche in Italia, sull'esempio di quanto avviene da tempo in altri grandi paesi colonizzatori, si riferiscono per esempio al Belgio e all'Olanda, la donna si formi con una preparazione morale e materiale per poter assolvere in colonia ai doveri e alle funzioni particolarmente ad essa aspettanti. Ora, vi leggo un pezzo della preparazione spirituale. Alle donne spetta una larga parte nel creare e coltivare in seno ai suoi familiari questa indispensabile mentalità, tanto nel caso che esse siano destinate ad accompagnarli e seguirli nel nuovo campo di lavoro coloniale, quanto se debbano rimanere in patria. Quindi si riprende anche qui il tema della donna angelo del focolare, portata i valori, quelle che sono le necessità di accompagnare, per essere appunto la spalla, il bastone della vecchiaia e delle fatiche di un uomo che però sarà il reale protagonista di tutta questa impresa. A queste ultime, le donne, anzi che sono certamente la grande maggioranza, è particolarmente affidato tale compito di natura spirituale ed educativo per la preparazione dei futuri valorizzatori del nostro impero e spetta quindi a loro di acquistare cognizioni sulle caratteristiche delle nostre colonie e di allevare i figli in questa conoscenza, affinché i nostri doveri e i nostri interessi d'oltremare diventano concetti generalmente profondamente sentiti dalle nuove generazioni. Quindi, per quanto riguarda invece i programmi, i miti e le realizzazioni, c'è un interessante paragrafo che appunto si intitola La donna in colonia. Il problema non è solo soddisfare l'istinto sessuale dell'uomo. Piccolo inciso per questa parte. Ad un certo punto ci si era resi conto che non si riuscivano proprio troppo bene e con troppa coerenza a diciamo, giustificare le leggi razziali nel momento in cui c'erano centinaia e centinaia di figli di ascari meticci che chiedevano la cittadinanza italiana. E ad un certo punto antropologi come Lombroso e purtroppo tristemente noti studiosi di quell'epoca cominciarono appunto a sostenere che il fatto dei rapporti sessuali meticci fosse di per sé un qualcosa di deplorevole. Però, se da una parte l'uomo italico che aveva rapporti sessuali con la donna indigena alla fine portava, come posso dire, dava solo al bambino indigeno quelle che erano le caratteristiche fisiche del, appunto, del maschio italico, al contrario sarebbe stato più riprovevole nel momento in cui sarebbe stata una donna italica fascista a congiungersi carnalmente con l'uomo indigeno, perché è la donna fascista che nei suoi geni e nel suo midollo spinale porta i valori, la moralità e quella grande filosofia che era la filosofia fascista e razzista degli anni 20. Quindi questo qua era un incipit che volevo fare prima di iniziare a leggere questo pezzo, che appunto si chiama Il problema non è solo soddisfare l'istinto sessuale dell'uomo. È evidente che la politica di difesa della razza potrà dirsi veramente riuscita solo quando si sarà risolto il problema della donna in colonia. Il problema non consiste esclusivamente nella soddisfazione degli istinti sessuali dell'uomo. Se così fosse, non difficile riuscirebbe la soluzione. Pausa per farsi fare un po' tutti per questa breve frase. Ma in Africa, più che altrove, in Africa, dove sono più facili ad avere presa sull'animo del colono i sentimenti di nostalgia, di solitudine e di sconforto, la donna ha la funzione sociale di essere innanzitutto la compagna dell'uomo, nel senso più alto e più nobile dell'espressione, fino a che nelle nostre terre d'oltremare il nucleo familiare, mirabile fondamento e sostegno della società latina, non riprodurrà fedelmente i caratteri del nucleo familiare italico. La nostra colonizzazione non potrà mai dirsi pienamente riuscita finché questo obiettivo non sarà raggiunto. D'altra parte, le donne possono, per un certo ordine di lavori, trovare utilmente impiego in Africa, come dattilografe, telefoniste, contabili, insegnanti e tutte quelle mansioni che aiuteranno il colono italiano ad adempiere alla sua missione civilizzatrice. È ovvio che la legislazione fascista del lavoro non mancherà di tutelare adeguatamente anche in Africa il lavoro femminile. Ma anche in questo campo saranno i datori di lavoro che dovranno dare l'esempio, facendo godere alle loro dipendenti un trattamento confortevole e dignitoso, che consenta di eliminare ogni incertezza. Pronto? Sì, ho sentito... Non mi stavate bloccando, vero? No, assolutamente. Ok, scusate. D'altra parte, l'esistenza di numerose donne in colonia giova anche indirettamente allo sviluppo delle iniziative, perché la donna è un elemento di stabilità dell'occupazione e della manodopera. Ne bisogna trascurare le conseguenze demografiche. La formazione di nuove generazioni nate e cresciute in Africa, infatti, contribuirà a creare i più saldi quadri per l'esercito dei lavoratori futuri. Finito. Maya, sei... Grazie Maya. Una professoressa praticamente. Addirittura. No, allora, volevo aggiungere una piccola riflessione. Non ho adesso il testo sotto mano, ma appunto volevo aggiungere di come il ruolo della donna all'interno del processo di costruzione della nazione e dell'identità nazionale è simile a quello che analizza Mohanty per quanto riguarda l'esperienza coloniale francese e algerina. E infatti qui ritroviamo appunto come il ruolo della donna venga ripreso nella costruzione di questo processo di identità nazionale espressamente e quasi esclusivamente come ruolo di genitrice, come ruolo di madre, come ruolo di colei che non può essere peccaminosa e non può essere, tra virgolette, contagiata dagli indigeni, perché ha l'onere e il dovere di portare nei suoi lombi quella che è l'italianità, quella che è la purezza della razza. E questi sono discorsi che sono stati ripresi a più portate, non solo in quelle che sono le istituzioni occidentali, ma anche i numerosi processi di creazione dell'identità dei paesi dopo diciamo i processi di post-colonizzazione, che appunto ha dato vita a numerosi femminismi non occidentali, di cui magari dopo Marito ci parlerà quasi sicuramente, perché farà un confronto con il colonialismo francese e quindi soprattutto con forme di femminismo non occidentale che sono nate esattamente in seguito a questo. Maya, grazie. Va bene? Certo che va bene. Certo, non c'è un va bene o un va male. Direi assolutamente sì. Dopo questa spiegazione che hai fatto non penso ci sia un va male. Sì, scusate, sono sempre un po' troppo a braccio perché, ripeto, è la seconda volta in vita mia che farò nel radio, però... Con noi, anche la prima è stata con noi. Senti, esatto. Visto che magari qualcuno che ci ascolta si sta interessando adesso al tema o vorrebbe approfondire l'argomento, sai consigliarci qualche articolo, libro, sito? Sì, assolutamente. Vai. Allora, per fortuna, diciamo, quello della questione coloniale italiana è stato un tema che è riemerso ultimamente, sicuramente anche grazie a noi o a chi ha ricordato un attimino la figura di Montanelli, ma da qui anche perché per tutte il, diciamo, l'ondata di razzismo interiorizzato che c'è stato successivamente diciamo, durante tutto il momento di criminalizzazione delle ONG e la questione dei migranti. Consiglio assolutamente i libri di Hijaba Shebo, che è una scrittrice italo-eritrea, e uno dei romanzi più belli che ha scritto riguardo questo tema è Adwa. Mm-hmm. E appunto Adwa è questa ragazza che prende il nome da una delle battaglie più importanti che c'è stato, e insomma non voglio spoilerare nulla, però attraverso questo libro cerca di riscoprire e riattraversa quella che è un po' la storia interconnessa che c'è tra i popoli di quella che veniva chiamata l'Africa orientale italiana e l'Italia, appunto. Quindi assolutamente Hijaba Shebo. Ok, grazie. Va bene, allora io continuo a riascoltarvi dal computer. Grande. Grazie Maya. Adesso mettiamo un brano. Ma grazie a voi. Della tracklist dei DJ, ascolta anche quella che è tanta roba e niente. Alla prossima Maya, grazie. Alla prossima telefonata. Ma figurati, ma io se volete dopo vi parlo anche di Indro Montanelli, di Dastè, della questione del Madamato. Guarda, in realtà preferirei anche, oltre a questo, se ho il tuo consenso, solo se ho il tuo consenso, ti inserirei nella rubrica delle persone che chiamiamo quando facciamo la telefonata a cazzeggio, il programma cazzeggio. Assolutamente sì, perfetto, tanto sono perfetto, in quarantena. Presa. Allora verrai chiamata anche per altre cose. Va bene, perfetto. Ciao Maya, buona serata. Un bacio. Ci sentiamo ciao. Presto. Ciao Maya. Anche a voi, ciao. Tocca a te bacio. Leggere il titolo della canzone. Okay. Quindi cosa abbiamo adesso? Questa qua. Let me tell you boy, the Ebony Sisters. Tutta per voi, a fra poco. da Let Me Tell You Boy a Neka con Viva Africa. Non è stata proprio una sfumata, però vabbè, ci proviamo. Ringraziamo di nuovo le DJ e DJ Utopia per la tracklist. Ci sentiamo fra pochissimo con Carlotta. C'è stato un momento di perplessità perché ci arrivano dei messaggi da numeri che non conosciamo e siamo molto contenti, in cui ci sgridano dicendo che Maya non si sentiva bene. Rispondiamo direttamente in diretta dicendo che sì, abbiamo registrato e sì, probabilmente miglioreremo l'audio in qualità rispetto al podcast, insomma. Assolutamente. Però sono molto contento perché è un numero che non conosco, una persona che non ho mai sentito né mai visto e ci scrive. Questo vuol dire che ci ascoltano. Cioè funziona questa cosa, ma non è che freddo. Vai Martin, trattieni, basta telefono, insomma, andiamo avanti. Ma come? Devo usare il telefono? Ringraziamo le DJ e DJ Utopia per i pezzoni fantastici appena passata Viva Africa e il vademecum è sul monitor. Certo, adesso sentiremo Carlotta che ci parla... Ci stiamo connettendo. Sì, di Nicola Pende e... Non ci vedo... Le... teorie tipologiche che hanno sostenuto la missione coloniale in Italia. Ah, Rachele, eri tu, scusami, non ho salvato il tuo numero. Ora lo salvo. Ciao, Rachele. Sta chiamando, Martin? Sì. Non sembrerebbe. No? No. Aspetta. Vi ricordo che siamo nelle mani di Martina Nicolosi, con la tecnologia ci va proprio bene. Eccola. Eccola. Chiama, chiama. Pronto? Ciao Charlie. Ciao. Ehi, ciao. Ci senti bene? Io sì, voi? Bene, sì, tutto a posto. Come stai? Benvenuta su Radio ZM. Grazie. Come va? Bene, sono qui nella quarantena, come immagino tutti voi e tutte voi. Niente, ho la concentrazione di un gattino, ma per voi proverò a rimanere concentrata qualche minuto a dire le cose che vi devo dire. Carlotta, prima di tutto dici da dove rispondi. Da casa mia a Milano, in questo momento sono nella stanza da letto perché casa mia ha solo due stanze, questo mi sembra il luogo più silenzioso. Fantastico. Come sta andando la tua permanenza a casa? Ma io devo dire, non mi lamento, lavoro da casa, appunto ho una casa che è una cosa non scontata, continuo ad avere uno stipendio e anche questo non è scontato. Di questi tempi, per cui devo dire non mi lamento, mi lamento solo se posso delle infinite riunioni online, che sono peggio di quelle offline. Vero, confermo. Sì, si Molto peggio. accavallano una dopo Questa l'altra. nuova dimensione dell'essere umano che ha preso a livello percettivo in cui ci si incontra tramite uno schermo ormai, sempre per forza. Sì. Che è bellissimo se non fosse che durano già, come dire, le riunioni durano tanto, queste ancora di più. Sì, dobbiamo abituarci alle tempistiche perché poi rispondi, non si sente. Aspetta che mi sono scollegato, ma qual è il codice? Esatto. Non so installare Poi l'applicazione. queste, quelle più militanti, quelle che faccio per lavoro, passano anche metà del tempo con persone che diciamo non sono avvezze a questo stile di riunione, quindi passa il tempo a dire non si sente, togli il video, metti muto, ma non ho capito dove devo andare. Carlotta, vai tranquilla perché queste cose succederanno anche adesso, probabilmente, perché la nostra astronave è un po' Perfetto. arroccata, però ci proviamo. Abbiamo Sono installato. allenata da giorni di quarantena. Bene, bene. Noi siamo molto contenti di essere riusciti a installare le telefonate via radio, così riusciamo anche a parlare con È te. Sì, bellissimo, sì, complimenti. sì, sì, sì. Adesso sicuramente ci arriveranno messaggi minatori che non si sente bene la tua voce, ma risolveremo, non c'è problema. Intanto andiamo avanti. Benvenuta per questa pillola che abbiamo dedicato al colonialismo e a tutto il discorso che ha fatto Maya, per esempio, di introduzione. E volevamo Sì, sapere allora da sono più te che tipo contenta. di contributo ci stai portando. Allora, io vi porto un contributo forse un po' a tratti che può apparire marginale, ma che invece per me, e spero insomma di riuscire a spiegarlo anche ad altri, è abbastanza centrale, che è intanto uno studioso, uno scienziato, Nicola Pende, che è abbastanza dimenticato. Io non so se voi ne avete mai sentito parlare, però No, mai. devo dire Io che, mai. appunto, io fino a poco tempo fa anch'io stavo lì come voi, è un endocrinologo che è italiano, come ci dice forse anche il nome, nato nel 1880, morto nel 1970, quindi abbastanza contemporaneo, a noi, che ha fondato un istituto che prende il nome di Istituto Biotipologico Italiano, un istituto che nasce a Genova nel 23 e che poi si sposta, però pochi anni dopo, nasce a Genova nel 26 e si sposta pochi anni dopo a Roma per volontà di Mussolini. Cos'è questa roba di cui lui si occupa, diciamo così? Allora, faccio un lunghissimo passo indietro. Fermatemi quando divento molto noiosa. No, no, vai, vai. ci sono varissime forme di razzismo nel mondo, tutte accomunate dal fatto di ritenere che ci siano delle razze superiori a delle altre, ma diciamo che si arriva a questa terribile conclusione da strade diverse. Tutte che, come dire, trovano il loro sviluppo a partire dalla fine del Settecento, in particolare, non che prima non ci fossero, ma quello che cambia è un'attenzione al corpo, cioè all'idea che dei corpi dicano delle verità su delle interiorità. Questo è interessante perché, ed è una cosa insomma su cui vorrei concentrarmi con voi, è la stessa, accade la stessa cosa su corpi neri, corpi indigeni, corpi asiatici e corpi delle donne. Il meccanismo che agisce è lo stesso, cioè affidare alla biologia una verità sulle persone. Con Pende lo vedremo benissimo. Linneo è uno dei così, delle cause di questa roba qui, che distingue, quando fa la sua distinzione tra tutte le specie, tra l'uomo sapiens e invece un altro tipo di uomo che è l'uomo mostruoso, che sono tutte delle deviazioni, diciamo così, dal cammino progressivo dell'uomo sapiens, e da qui le divisioni si moltiplicheranno in tantissime forme. Pende che cosa fa? Riprende, so che anche Maya forse l'ha citato, mi è parso di sentire, riprende alcune teorie di Lombroso, quindi quest'idea appunto che vi siano dei tratti somatici che esprimono l'interiorità dell'individuo, ma le modifica adattandole al suo tempo, per cui è un endocrinologo e si occupa appunto degli ormoni. Contate che gli ormoni li hanno scoperti poco tempo prima che lui, scoperti tra virgolette ovviamente, che lui inizi a lavorare, per cui è come dire un innovatore in qualche modo. Nicola Pende scrive un libro nel 33, che è il libro suo più famoso forse, che vi dico il titolo perché secondo me è molto interessante, si chiama Bonifica umana nazionale e biologia politica. Lui dice di inventare una disciplina che si chiama biotipologia, appunto dal bios, da studio dei tipi delle forme di vita, e lui dice quello che noi possiamo scoprire è che ci sono delle caratteristiche innate, per lui ormonali, che fanno sì che alcune persone siano migliori delle altre. Ora, perché questo è significativo? Perché in Italia tendiamo in qualche modo a considerare che il fascismo era una roba un po' meno del nazismo, un po' meno brutta, e che il razzismo fascista era un po' meno brutto di quello nazista, cioè che quelle cose che ma le leggi razziali sono state fatte perché lo voleva Hitler, che ci lava un po' la coscienza. Ecco, se noi invece studiamo gente come Pende, studiamo il nostro colonialismo, vediamo che non è così. Cioè Pende fonda appunto questo istituto. Qual è lo scopo di questo istituto? La bonifica della razza italica. Capite? Cioè, sentiamo le parole, no, che usa, la bonifica, come si bonificano i terreni. Bonificare la razza italica da tutti quegli elementi che non vanno bene. Come? Due modi. Uno, eugenetica. Un'eugenetica fatta, attenzione, non nel modo in cui la fanno i nazisti, diciamo così, ma un'eugenetica fatta attraverso delle sterilizzazioni di persone che vengono ritenute non adatte a riprodursi. Ma anche, e in questo Pende è abbastanza un innovatore, Pende dice, beh, noi però possiamo agire sulle persone, chiaramente non si può cambiare la loro natura, ma possiamo migliorarli un pochino, e quindi una serie di esercizi. Dovete immaginare l'istituto biotipologico come un grandissimo istituto in cui avvengono tantissime cose diverse. Che tipo di cose avvengono dentro questo istituto? Allora, c'erano dei luoghi di esaminazione in cui, se vi capita di guardare in rete, si trovano alcune schede, queste schede in cui si analizzano i tratti fisici delle persone per stabilire in che categoria vanno a finire. Poi, delle stanze dove venivano valutate le attitudini professionali delle persone, perché qual è il tema, no? Allora, alcuni non li facciamo riprodurre, ma quelli che si sono già riprodotti, come li impieghiamo? Possiamo fargli fare dei lavori adatti a loro, ovviamente dei lavori spesso umili, o considerati umili. Quindi una forma di sfruttamento di queste persone, delle stanze dove venivano fatte delle trattamenti di sperimentazione umana, ve ne dico alcuni terribili, per curare le persone, curare, per vedere se si può curare l'omosessualità, questo è uno dei crocci di pende, capire come gestire l'omosessualità, che è un problema per la razza italica, impianta delle ghiandole di scimmia nel corpo delle persone. Oppure per curare l'omosessualità femminile, così, taglia via le clitoridi a numerose donne. Questo, apro solo una piccola parentesi, no? Quando noi occidentali guardiamo, per esempio, alle mutilazioni genitali femminili come un orrore, giusto? Però e le guardiamo come qualcosa di lontanissimo da noi, ecco, fanno parte anche pienamente della nostra storia. E poi però in questo istituto vi è anche un luogo, una specie di palestra, immaginate, dove si può lavorare per correggere alcune piccole malformazioni della natura. Dal suo istituto a Roma passano tutti i balilla, quindi tutti i bambini italiani dell'epoca, per essere esaminati e per essere poi possibilmente migliorati. L'ideale di Mussolini e di Pende era fare, come dire, uno screening di tutta la popolazione italiana per poter isolare, diciamo così, le mele marce che infettavano la razza, curare quelli che si poteva curare e sviluppare la razza italica. Questo cosa c'entra con il colonialismo? C'entra in due sensi. Il primo è che ovviamente tra queste mele marce ci sono gli ebrei, ovviamente, come dire, dato il clima dell'epoca, ma anche tutti i popoli colonizzati, che fisicamente hanno caratteristiche inferiori. Quindi, in qualche modo, Pende fornisce una giustificazione scientifica basata appunto sugli ormoni, per cui è perfetto poter sfruttare i corpi delle persone, dei popoli colonizzati. Perché? Perché c'è anche una dimensione, come dire, se volete, un po' pastorale, no? Un po' di paternalistica. Loro sono più felici così, nel fare dei compiti semplici sfruttati dagli italiani che sarebbero, come dire, superiori. L'altro cosa che fa è appunto istituire delle norme di genere molto forte. Vi dicevo all'inizio, no? Colonialismo, razzismo e oppressione di genere vanno sempre a braccetto. Non è un caso che appunto questi Pende agisca contemporaneamente sia sul lato della razza, quindi del migliorare la razza, del identificare le razze cosiddette inferiori, sia sul piano del genere, quindi curando gli omosessuali e le omosessuali, cercando di curare l'infertilità femminile, perché l'idea è che gli italiani debbano essere molti e sani, quindi ci vogliono donne forti che siano in grado di procreare figli sani, quindi bisogna curare l'infertilità femminile e l'impotenza maschile, e bisogna creare questi esseri umani nuovi, l'uomo nuovo di cui Mussolini parla, che possa in qualche modo, no, garantire all'Italia quel posto al sole di cui si parla quando si parla dell'impresa coloniale. Quindi in qualche modo vediamo che tutti questi fili tornano a tenersi in uno scienziato, e questo magari concludo, perché se avete voglia di approfondire degli aspetti e di farmi delle domande, che nel 61 ha ottenuto una medaglia d'oro ai benemeriti della sanità pubblica, quindi, come dire, è un rimosso molto forte, no? Cioè, pensare che una persona che ha così tanto partecipato al fascismo, non soltanto in termini ideali, ma anche proprio in termini pratici, facendo degli esperimenti sulle persone e sugli animali particolarmente cruenti e crudeli, con nessun intento benefico, riceva una benemerenza, e oltretutto viene fatto un processo subito dopo la guerra perché lui è uno dei firmatari del manifesto per la difesa della razza, viene però scagionato dalle accuse, viene per un breve tempo esonerato dall'insegnamento, ma poi viene, come dire, riabilitato e insegna fino a quando dovrà andare in pensione patologia medica all'Università di Roma, quindi una perfetta continuità tra prima della guerra e il dopoguerra, come se tutto quello che lui ha fatto per sostenere le teorie razziste di Mussolini fosse assolutamente ininfluente. Viene invece riconosciuto. Esatto, cancellato completamente, non solo cancellato, no? Gli viene data una medaglia, cioè in qualche modo si ritiene che questo sforzo di miglioramento della razza avesse un senso, cioè che fosse comunque un'esperienza che si può ritenere in qualche modo di valore. Cioè, contate che, forse ve l'avrà già detto Maya, non voglio ripetermi, ma in quegli anni, perché poi quando si parla del colonialismo italiano sì, sembra sempre che appunto eravamo brave persone, in quegli anni ci sono gli zoomani in Italia, sì. Cioè ci sono esperienze di questo tipo in cui appunto poi Pende prende alcuni delle sue cavie, cioè ha senso proprio purtroppo chiamarle cavie, questo ci dovrebbe dire anche delle cose appunto sulla continuità tra umano e animale, però via di questo prende delle sue cavie per studiare queste sue tipologie razziali. Ecco, chiaramente Pende non invita allo sterminio come altri scienziati, ma capite che la sterilizzazione forzata non è che siamo tanto lontani dallo sterminio in questo senso. Sterminio che appunto invece viene promulgato da autorevolissimi scienziati per tutto il corso dell'Ottocento e anche prima, che ritengono che appunto sia lecito per il bene della popolazione eliminare, esattamente come si fa con una bonifica, e per questo il titolo di Pende è significativo, i soggetti che devono essere esclusi. E concludo solo con un altro autore, che forse questo invece avrete sentito, Otto Weininger, sì, che è un filosofo austriaco, lui è ebreo, e Hitler dirà: l'unico ebreo che io appressi, sì, vero, non sì, si incontreranno mai, in realtà. Otto Weininger è in qualche modo uno dei precursori, diciamo così, Pende per quanto riguarda lo studio appunto delle differenze sessuali. Otto Weininger ritiene che vi siano delle caratteristiche innate del maschile e del femminile che ogni tanto si mescolano male per creare le persone omosessuali. Per esempio, siamo ancora in un'epoca in cui tra omosessualità e transessualità non vengono distinte, ecco, e quindi parla di donne mascoline che sono lesbiche, perché c'è stato una confusione rispetto al bilanciamento dei loro tratti innati, di uomini effeminati che sono gay per questo, ma aggiunge, no, degli archetipi che sono quelli per esempio dell'ebreo. Ed è significativo che lo faccia in un testo che parla di differenze di genere. Dice: certo, all'interno di queste differenze di genere noi vediamo per esempio che ci sono gli uomini ebrei che sono simili alle donne. Quindi questo costante andare a braccetto, non soltanto nel modo in cui vengono trattate le donne colonizzate, ma anche proprio nel modo in cui noi intendiamo le differenze razziali o sessuali, a partire da questi studiosi vi è appunto una costante continuità, un costante intreccio che parte dall'idea che purtroppo ancora oggi in qualche modo in alcuni è presente, che corpi diversi dicano di per sé delle possibilità di vita diverse, delle possibilità intellettive diverse, delle modalità di comportamento diverse, una dimensione in cui appunto alla biologia fa seguito una qualche forma di verità, senza vedere che in quella stessa biologia è lo stesso Pende che ci mette quello che ci vuole vedere, perché appunto pensare che per curare l'omosessualità di una donna si possa tagliarle la clitoride è chiaramente voler vedere nella biologia delle cose un po' bizzarre. Per cui quello che credo sia interessante di questa storia di Pendetta è mostrare come vi è un razzismo, come dire, profondamente italiano, non di importazione, un razzismo che viaggia certo su tratti diversi da altre magari forme di razzismo, ma che non per questo è meno pericoloso, e che viaggia, e questo è un altro dato interessante, anche lungo le linee della colonizzazione interna. Per esempio, Pende studia come cavie le persone che dal Veneto vengono portate nell'Agropontino con la bonifica delle paludi, per capire quale tipo di cittadino, di corpo, di essere umano può adattarsi meglio a quelle situazioni e quindi può essere poi, per esempio, esportato anche nelle colonie africane. Cioè, vi è tutto uno studio di che tipi di cittadini italiani anche possono essere mischiati e in che modo, esattamente come se si trattasse di un moderno allevamento di animali, non vi è differenza in questo senso. E quindi, come dire, questa dimensione di un fondamento scientifico del perché ci possiamo permettere di andare a colonizzare degli altri popoli è interessante. E su questo, però, è anche interessante vedere, per esempio, che cosa ne pensa Mussolini di questa storia, come dire, di colonizzazione e di superiorità. Cioè, è pieno, no, di contraddizioni questa storia, ma cosa ne pensa appunto lo stesso Mussolini, perché Mussolini, insomma, crede alla superiorità degli italiani, ma poi si accorge che nella realtà questa superiorità non è così forte e deve promulgare delle leggi per imporre, diciamo così, uno stile di vita agli italiani nelle colonie molto, molto importante. Vi leggo solo un discorso del 38 di Mussolini, e dice: il problema razziale è per me una conquista importantissima ed è importantissimo averlo introdotto nella storia d'Italia. I romani antichi erano razzisti fino all'inverosimile. La grande lotta della Repubblica Romana fu appunto questo: sapere se la razza romana poteva aggregarsi ad altre razze. Questo principio razzista, introdotto per la prima volta nella storia del popolo italiano, è di un'importanza incalcolabile, perché anche qui eravamo dinanzi a un complesso di inferiorità. Anche qui ci eravamo convinti che noi non siamo un popolo ma un miscuglio di razze, per cui c'era motivo di dire negli Stati Uniti: ci sono due razze in Italia, quella della Valle del Po e quella meridionale. Qui poi Mussolini dice, quindi, insomma, il razzismo ci permette di diventare un popolo. Cioè, guardare ad altri come inferiori ci permette di diventare italiani, quando prima non lo eravamo. Poi parla quindi della conquista dell'Africa come necessaria a questo sentimento nazionale, poi dice: ma quando hanno visto, e qui sta parlando appunto dei popoli colonizzati, gli italiani che andavano più stracciati di loro, che vivevano nel Tukul, che rapivano le loro donne, hanno detto: questa non è una razza che porta la civiltà. E siccome gli Amara sono la razza più aristocratica dell'Etiopia, si sono ribellati. Queste cose probabilmente i cattolici non le sanno, ma noi le sappiamo. Ecco perché le leggi razziali dell'impero saranno rigorosamente osservate e tutti quelli che peccano contro di esse saranno imprigionati. Perché l'impero si conservi, bisogna che gli indigeni abbiano nettissimo predominante il concetto della nostra superiorità. Che cosa ci sta dicendo qui Mussolini? Che la nostra, in qualche modo, riconosce che la nostra superiorità non è data, la creiamo noi. E come la creiamo? E torniamo a Pende, no? La creiamo attraverso delle modalità eugenetiche che ci facciano diventare la razza superiore. Quindi il colonialismo ci serve per diventare italiani, che non eravamo prima, e per diventare superiori, che non eravamo prima. Capite che è tutta una cosa autoriferita, funzionale all'Italia stessa e funzionale al dominio anche degli italiani. Quindi vi è un costante intreccio di tutti questi livelli che è difficilissimo da sciogliere, che è difficilissimo da sciogliere perché appunto la vicenda Pende ci insegna che l'abbiamo volontariamente rimosso dalla nostra storia. Abbiamo fatto finta che non esistesse, e come tutte le cose che facciamo finta che non esistono, poi tornano a chiederci il conto, e tornano a chiederci il conto, per esempio, nelle forme di razzismo contemporanee. Esattamente. Io questo un po' volevo dirvi, cioè questi intrecci di questioni di genere, questioni razziali, che non possono andare disgiunte. Quando dico non posso, lo dico, come dire, anche alle femministe, no? Non possiamo non vedere che quello che è stato fatto sui nostri corpi è l'esatta stessa cosa che è stata fatta su altri corpi, e su altri corpi in maniera maggiore, perché non dimentichiamo che tutti questi studi sull'endocrinologia e sulla sessualità e sui corpi vengono fatti in primo luogo su corpi di donne nere, che vengono studiate per scoprire alcune forme della sessualità, e poi su corpi di uomini bianchi omosessuali. Quindi però vi è questo intreccio che non possiamo non vedere, e vi è un intreccio molto forte con la costruzione dell'Italia come nazione, come appunto una tipologia fatta di individui che meritano di andare avanti e individui che per natura non lo meritano, no? Capite che questo impedisce, è proprio il contrario di qualsiasi forma possibile di lotta di classe, perché se tu sei nella condizione subordinata per natura, nessun progresso è possibile. Direi che è una spiegazione perfetta, cioè super lucida. No, davvero, è un discorso molto interessante, anche secondo me molto complesso da fare, ma molto piacevole da sentire, te lo assicuro. Pronto? Vi ho aperti? Mi senti? Ci senti? Ah sì, adesso sì. Ok, no, dicevo che ora è sì. Stato molto piacevole sentire questo discorso, che immagino sia abbastanza complesso da fare. Sì, spero di essere riuscita a sintetizzare, perché poi ci sono appunto molte storie che si intrecciano e molti riferimenti, come dire, anche culturali, che spesso, come dire, nella storia della filosofia o della storia o della scienza occidentale tendiamo a non vedere. Ci ho fatto riferimento a Linneo, perché appunto di solito noi guardiamo a Linneo come a uno dei tasselli di un progresso scientifico, però un progresso scientifico che mette lì il seme per la divisione scientifica delle razze anche. Quindi insomma, il razzismo non è un incidente di percorso, ma è costitutivo del modo in cui si costituiscono le nostre società. Certo. Grazie Carlotta. Grazie. Grazie a voi. Spero di sentirti nelle prossime settimane, magari quando volete, libera. Quando volete, intanto appunto, io sono qui a casa. Noi facciamo spesso queste telefonate in realtà. Sì. Ci capita a me fa molto piacere la radio, penso che sia uno strumento bellissimo, e ascoltarvi dalla quarantena è molto bello. State facendo un bellissimo lavoro, per cui quando volete. Grazie. Grazie, grazie Carlotta. Grazie anche per il contributo grazie di oggi. Complimenti. Buona serata. Ciao. Ciao. Insomma, ringraziamo Carlotta. Noi speriamo ovviamente che tutta questa cosa che abbiamo messo su duri anche oltre questo periodo. È quello che speriamo un po' tutti e un po' tutte. Anche perché è vero che ce ne siamo resi conto anche noi stessi adesso di quanto può essere potente questo strumento, che ci serva anche per portarlo oltre. Sì. Grazie Carlotta. E Marti, prego. Bene, adesso? Ascoltiamo Calypso Rose, Abatina, e Satan Brothers, The Guardian, Vulcan. Tutti per voi, a tra poco. Oh, you have the breaking down the door. church where she got married. Abatina, oy, who you have there breaking down the door? Tina should have outlived us. Now we pray that she will forgive us. Siamo impegnati un sacco, questo pezzo fa paura, è bellissimo. We'll be right back. io sono senza parole. Perché devo essere sincero, noi durante gli stacchetti musicali facciamo una pausa, prendiamo fiato, insomma una serie di cose, tra cui magari fumiamo anche una sigaretta, ovviamente con le casse in filo di fusione in tutto il collettivo. E ho visto gente ballare, giuro, veramente, veramente. E ringraziamo di nuovo le DJ, ringraziamo DJ Utopia. Io vorrei salutare Stefano, posso? Certo. Stefano, che ci stai ascoltando, lo so, Stefano Ghidetti è intervenuto martedì sera, se non avete ancora sentito il podcast è uscito proprio ieri e potete farlo. Ci ha tenuto compagnia, dicevo, martedì, e so che anche stasera ci sta ascoltando, quindi sono felicissimo. Ciao Stefano, siamo riusciti anche a riparare quel piccolo danno che c'è stato in diretta, per cui alcune ascoltatrici, alcuni ascoltatori hanno avuto difficoltà, però il podcast è sano, è vivo, sta facendo i primi passi, è uscito ieri sera, quindi andate su Mixcloud, cercate Radio ZM e sentite tutti i nostri bellissimi podcast. Andiamo avanti, intanto qua la gente si prepara per mangiare, ma noi invece ci prepariamo per telefonare a... Marie, sta già chiamando? No. Adesso la chiamiamo. Dov'è che, da dove risponde Marie? Adesso glielo chiediamo, allora. Buon appetito voi, eh! In tutto questo ci hanno rubato anche il cane, quindi siamo rimasti io e Marti e WhatsApp. Sì, un po' mi manca, ecco. Ma sì, però in radio lo vedi che poi vorrebbe sempre parlare, però non glielo passiamo mai il microfono, perché poi diventa logorroico, non finisce più. Ci racconta un sacco di cose, poi dici i segreti. Ah, sta squillando. Non sapevo più cosa dire, meno male. Che chiamarla dopo. Benvenuto nel servizio, sì. Di ma è la Vodafone, è tornata. No, è vero, non è Lorenzo, non è il programma, cazzeggio, mi raccomando. Guglielmo. Ok. Niente. Vabbè, andiamo avanti. Beh, cosa facciamo la prossima chiamata? Facciamo la prossima chiamata, ma dici che ci aspetta quest'ora? Non vogliamo lo so. Mandare ancora un po' di musica? Sì, dai. Mandiamo un po' di musica. Intanto proviamo anche a ricontattare Marie. Io qua vado avanti, però continuo a insistere, Marti, leggi tu i brani perché sei veramente brava. È questo qua sulla sinistra. Allora, sentiamo The Bongo Hop di Ventana? Di Ventana? Non so chi sia. Esattamente. Thank you. mundo. En la lucha contra el tiempo, me miras de tu ventana. Ahora soy yo quien camina. Ed eccoci tornati più carichi di prima, più carichi di prima. Questa musica... Vero? Mm-hmm. No, tra ma l'altro... poi ho letto anche un titolino dopo, guarda che mi è sfuggito prima. Mentre le scaricavo e le cercavo, l'ho fatto un po' macchinosamente, adesso mi è saltato l'occhio, ho detto, oh mio Dio. Quindi, andiamo avanti e... Abbiamo sentito Marie mentre c'era lo stacchetto musicale, sì. Ci ha detto che adesso è un attimo impegnata, vi saluta tutti e tutte, ma la sentiamo più tardi. Quindi anticipiamo Marti. Sì, e chiamiamo Martina. Tra l'altro io saluto Nick. Ciao Nick. Che ci sta ascoltando e apprezza tantissimo la musica, quindi complimenti alle DJs. Sempre complimenti alle DJ. Ciao. Ciao Marti. Ciao Marti. Ciao. Benvenuta Ciao. Su Radio ZM, Marti, come stai? Grazie. Io sto bene, chiusa in casa come tutti e tutte, quindi direi, però dai. Da dove ci chiami? Da... No, ti chiamiamo. Siamo noi che chiamiamo. Da Milano io. Okay. E nulla, questo. Bene. Allora, inizio subito, va bene? Guarda, aspettavamo certo, solo certo. quello. Allora, io ho deciso di parlare, diciamo, del colonialismo sotto un altro aspetto. Io non parlo, diciamo, di esperienze specifiche, soprattutto in verità non parlo dell'esperienza italiana. Quindi inizio, magari leggo prima, ma dopo ne parliamo un po' meglio. Va bene. Allora, leggo, diciamo, un passaggio dal libro che è Ecofeminism. Il libro è stato pubblicato nel 1993. E da Zbooks, io non ho trovato la traduzione in italiano, quindi non so in verità se sia mai stato tradotto in italiano a questo punto. Quindi ho preso un piccolo passaggio e l'ho tradotto io, quindi già mi scuso in anticipo se magari non è abbastanza lineare. Vai tranquilla. Ed è stato scritto da Mara Mies, o Mies, non lo so, comunque lei è una professoressa di sociologia tedesca. È una femminista, ha pubblicato un po' di libri appunto e articoli su femminismo e ecologia. E anche da Vandana Shiva, che è un'attivista ambientalista indiana che è abbastanza conosciuta. E parla appunto della... cioè il libro tratta vari argomenti, diciamo, su tutto quello che riguarda l'ecofemminismo. E vabbè, io leggevo questo passaggio che è la colonizzazione sulle donne. Allora, fin dalla nascita del moderno Stato-Nazione le donne sono state colonizzate. Questo significa che il moderno Stato-Nazione necessariamente controlla la loro sessualità, la loro fertilità, la loro capacità produttiva, forza lavoro. Senza questa forma di colonizzazione, nel capitalismo, nel moderno Stato-Nazione sarebbero potuti esistere così a lungo. Ed è questa colonizzazione che costituisce le fondamenta di quello che oggi viene definita la società civile. Allora, molti studiosi sono concordi nel sostenere che la più importante forma di divisione del lavoro è quella tra lavoro salariato, che è principalmente maschile, e il cosiddetto lavoro domestico delle donne. In questa divisione il lavoro salariato è direttamente controllato dal capitale, quindi dall'economia, ma l'economia non può direttamente controllare la sessualità, la fertilità e la capacità di lavoro delle donne. Per far questo è necessario quindi l'intervento dello Stato con le sue politiche sulla famiglia. Lo Stato deve inoltre esercitare controllo sulle donne perché ha bisogno di soldati che difendano i confini e i territori, funzionari per la sua burocrazia, e l'economia ha invece bisogno di lavoratori e consumatori. le donne sono essenziali per la procreazione di nuove persone, ma né l'economia né lo Stato hanno bisogno delle donne in quanto tali, ma solo per il ruolo che svolgono all'interno della società. Quindi in questo senso diciamo che appunto il controllo delle donne viene esercitato attraverso la violenza, che può essere chiaramente violenza fisica, ma anche legislativa e culturale. Allora, poi la casalinghizzazione, allora questo termine, allora il termine nel libro, nel testo è housewifeization, qualcosa del genere. Io non sapevo come tradurlo, quindi ho cercato su Google se qualcuno appunto l'aveva già fatto e ho trovato un articolo molto interessante che è Contraddizioni del capitale e del lavoro di cura, e in cui viene appunto il termine viene tradotto con casalinghizzazione. E l'articolo, vabbè, parla delle varie fasi del capitalismo anche qui e della crisi del lavoro di cura. Adesso riprendo un attimo. Allora, la casalinghizzazione non è quindi il risultato di semplice sadismo maschile, ma un processo necessario per un'economia il cui scopo è una crescita e un'accumulazione senza limiti. Questo obiettivo può essere raggiunto solamente dividendo il mondo e sfruttando e colonizzando le varie parti. Il compito dello Stato-nazione è stato quello di organizzare questa colonizzazione interna ed esterna, nel senso che l'ha legalizzata. Il moderno mercato capitalista, in particolare quello della forza lavoro, è stato creato dal diretto intervento e dal potere dello Stato. Questo intervento statale ha avuto e ha tuttora lo scopo di manipolare i comportamenti riproduttivi delle donne. Inoltre, il compito dello Stato-nazione è quello di mediare tra ciò che è universalmente viene riconosciuto come i diritti umani, secondo il quale tutte le persone sono uguali e libere, e quelli che nella realtà sono i segmenti diseguali nelle diverse colonie, colonie sia interne che esterne, quindi tra i lavoratori salariati e i lavoratori non salariati, tra i cittadini e gli stranieri, tra le donne e gli uomini, tra le minoranze etniche e la maggioranza. Qui incontriamo quindi una contraddizione strutturale della società civile. Tutti i moderni stati democratici hanno riportato all'interno delle proprie costituzioni quelli che sono i fondamentali diritti umani, cioè l'uguaglianza, libertà e fraternità. Ma se questi diritti, specialmente il diritto all'uguaglianza, venissero applicati a tutte le persone e non solo politicamente ma anche dal punto di vista economico, il sistema economico stesso crollerebbe. Di conseguenza ai lavoratori stranieri, alle donne, a coloro che richiedono asilo politiche, sono negati tutti i diritti politici ed economici di cui gode l'uomo bianco etero. Per proteggere queste contraddizioni lo Stato ha necessità di esercitare violenza diretta e coercizione, anche perché appunto è lo stesso Stato-nazione si è costruito attraverso la violenza e non avrebbe potuto continuare ad esistere senza il monopolio appunto sulla violenza diretta e sui vari mezzi di coercizione che prendono forma attraverso il corpo armato. Questo monopolio della violenza diretta implica la militarizzazione dell'uomo, con l'esercito che diventa una scuola di virilità. La militarizzazione dell'uomo, d'altra parte, implica sempre la violenza e la degradazione della donna. Infatti c'è una forte correlazione tra le guerre nei confronti di altri popoli e la guerra contro le donne, che assume la forma di stupro. Lo Stato-nazione capitalista patriarcale, la patria in poche parole, ha bisogno necessariamente di questa virilità personificata nell'ideale collettivo, nell'immagine di Rambo, in modo da perseguire quindi i suoi obiettivi politici ed economici. Chiaramente questa militarizzazione colpisce le donne, non solo le donne del nemico di un altro territorio, ma le donne all'interno della nazione stessa. Ok, questo è quello che volevo leggervi. So che sono tanti, diciamo, concetti assieme più che altro, però volevo parlare appunto del colonialismo come sulle donne, sul corpo della donna, e che nasce proprio con la divisione del lavoro sessuale, quindi col capitalismo stesso, di quanto siano fortemente legato a una società capitalista e il patriarcato. Non so se avete delle domande. Guarda, a me, cioè io sono a posto così, nel senso che sembrava abbastanza completo in realtà. Poi ci sarebbe sicuramente un sacco di cui parlare, però magari rischiamo di monopolizzare sì. Troppo la cosa, anche perché abbiamo ancora Maria da chiamare, forse di nuovo Maya. No, esatto, perché poi ci sarebbe tutto chiaramente il discorso donne e natura, tutte le dicotomie che ci sono sotto il capitalismo, però vorrei, cioè, diventa molto lungo. No, se vuoi accennarlo, a noi fa piacere, se lo accenni in realtà. Meglio, sì. Beh, allora, prima di tutto, chiaramente il rapporto che, diciamo, che la donna ha con la natura è diverso da quello nell'uomo, nel senso, sia per i termini utilizzati per la descrizione della donna, sono tendenzialmente molto simili agli aggettivi utilizzati per descrivere la natura, il fatto dell'istintività, di tutto questo, mentre l'uomo maschio, bianco, è razionale, lucido. E poi il rapporto che ha la donna con tendenzialmente la natura è diverso, proprio perché la donna è stata quella esclusa dal sistema capitalista in quanto appunto il lavoro domestico, il lavoro nascosto, non salariato, ha avuto un rapporto più diretto con la natura perché lo utilizza proprio per, come forma di sostentamento, no? Per la famiglia. È per questo che anche in molti casi coloro che sono le donne che difendono tendenzialmente il territorio e sono molto presenti sul territorio quando si parla delle difese della terra anche in Sud America ma anche in Africa e in Asia, proprio per il rapporto stretto che hanno con la terra stessa, e che ci si dimentica sempre di dirla questa cosa, perché chiaramente mentre l'uomo è obbligato a lavorare sia per quello che è la concezione della famiglia tradizionale, chiaramente, sia per necessità, come sappiamo tutti, e la donna che rimane sul territorio. E poi un altro aspetto, questo più legato al concetto di stato-nazione, nel senso che la nazione, la madre patria appunto è la donna, e per questo quello che accenno anche allo stupro, lo stupro di guerra non è lo stupro commesso ai danni della donna, è lo stupro commesso nei confronti degli uomini di quella nazione. Non so se mi sono spiegato. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Marti, che dire, anche tu grandi studi, se vuoi consigliarci anche tu come ha fatto Maya dei riferimenti o dei libri. Allora, sicuramente questo Ecofeminism che si trova nelle varie librerie e biblioteche, però in inglese. Ok. E poi la Federici, che Reincantare il mondo, Calibano e tutto, perché c'è anche lì il discorso appunto della caccia alle streghe che è molto importante. Sì, condivido, perché è un libro veramente molto ricco e interessante, quindi lo consiglio anch'io. Marti, io spero di risentirti in radio. Com'è andata questa prima volta? Era agitata in verità. Ma aspetta, prima volta in generale? Sì, è la prima volta in assoluto. Che bello! Grande, siamo molto contenti. Fai conto che noi abbiamo anche dei programmi in cui chiamiamo la gente a caso e ci raccontiamo le cose. Se ti può interessare, ti insegniamo in rubrica. Mi butto, vai. Vai. Va bene. Grazie. Marti, grazie. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie. Marti, buona serata. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Adesso quale altra figura di merda devo fare per il titolo della prossima canzone? Dato che me le sto. Marti, è una responsabilità che mi sto assumendo io, perché Lorenzo non vuole fare le figuracce. Esatto, sì, perché capita questa cosa. A destra. Ma l'abbiamo già sentita? Davvero? Ma no, assolutamente, è appena finita questa. Questa l'abbiamo già sentita. Ma Ventana l'abbiamo sentita. Questa è sinistra, questa è destra. Ah, devo leggere l'altra. Esatto, ti ho detto destra. Non hai problemi. Okay. Qui la tecnologia, ma anche il sinistra destra da un certo punto di vista. Vai! Ok, Immortales, Nicodemus. La prossima volta titoli più semplici, ragazze. Perché... Lady J, non ascoltare, sei bravissima. DJ Utopia grandissima e ci sentiamo fra poco. Dale move, que si no move, vamos a desaparecer. así. Yo no pare que ya sos parte de esta nave, sos tripulante. En esta vía hay que tener coraje, mover la sangre así. Io questa non la conoscevo, quindi me la sono segnata. Ah, ricordiamo ovviamente che tutta la musica che viene trasmessa durante queste pillole è curata dalle DJ, e in questo caso stasera anche da DJ Utopia, sono brani che rimarranno in database, quindi a rotazione musicale notturna li potete risentire, però insomma a botta di culo, nel senso ma che... c'è anche Sul podcast, no? Sul podcast sì, vengono mantenuti, vengono anche sistemati. In realtà c'è la tracklist. C'è la tracklist, però esatto. Però vengono anche mantenuti nel database della radio, che a rotazione musicale di notte, per esempio, tiene compagnia, però è una rotazione casuale, quindi non sappiamo che brani va a pescare di notte. Potrebbe pescare anche quelli di Lady J, quindi c'è la possibilità che ritorni. Poi, vabbè, lo dico. Stiamo trattando, siamo sul tavolo delle trattative. Fra un po' il programma scatta. Io sono fiducioso, lo so che ci sta ascoltando, perché controlla che tutti i pezzi vengano messi bene, ci dice tutto, eccetera. Riceve un sacco di complimenti, quindi il programma te lo stanno chiamando da casa. Cioè, dai, attiviamoci, tanto con Zoom basta un jack ed è fatta. Quindi andiamo avanti, andiamo a ripescare quello che era rimasto nel terzo capitolo, la terza parte dei... Rido perché mi arrivano messaggi di apprezzamento. Ci siamo. Qua fra un po' sento la penna che firma sul foglio. E terzo capitolo, Marie non ci ha risposto prima perché era impegnata, quindi ci scusiamo per averla disturbata, ma ora forse ci risponde. Pronti? Ciao Marie. Ciao Marie. Eccoci, ciao. Come va? Alla grande, no? Cioè, a voi? Guarda, alla grande, Marie. Scusami se ti abbiamo disturbato prima, però c'è stato un momento di timing sbagliato. Ora tutto a posto, ci siamo? Ci siamo. Perfetto. Anche tu, come diceva Carlotta, sei in preda a Skype, Zoom, Meet, eccetera, eccetera. E nostro malgrado, però... dovendo organizzare un sacco di urgenze, per forza siamo su Skype o Zoom ogni 10 minuti, ce n'è una diversa, però vabbè, insomma, per fortuna che possiamo organizzarci in qualche modo, dai. Senti, tu che cosa ci porti oggi? Cosa vi porto? Io so che volevate aprire una riflessione, diciamo, a 360 gradi su questione genere decolonizzazione, no? Sì, esatto. Sì, era proprio la puntata dedicata. Voilà. E, io sono una ricercatrice, una dottoranda in filosofia politica, mi occupo di pensiero femminista decoloniale. In particolare, in realtà, lavoro su un pensatore, Frantz Fanon, che quindi mi ha permesso di approfondire le storie di resistenza e di lotta nelle Antille francesi, e poi anche, diciamo, come hanno influenzato e ispirato il pensiero femminista decoloniale. E allora, se vi va, qualche riflessione, mi fa piacere condividerla. Anche a noi, ti ascoltiamo. A partire da me, perché appunto da femminista ho imparato a situarmi, e nel senso che io sono nata in Italia da una famiglia mista, come si dice, interrazziale, per cui mia mamma è italiana, mio papà è haitiano, e quindi la mia famiglia paterna arriva proprio da una delle ex colonie francesi, una di quelle che hanno anche forse la storia politica più interessante rispetto alle riflessioni di questa sera, perché Haiti è stata la prima destinazione della tratta transatlantica degli schiavi e delle schiave, e la prima colonia, la prima repubblica nera a essersi dichiarata tale, in seguito a un'insubordinazione di massa della popolazione schiavile, che nel 1804 si ribellò appunto al potere coloniale e dichiarò la liberazione, l'abolizione della schiavitù e la liberazione dell'isola. E in questa storia raramente in queste storie in generale, diciamo, in particolare di resistenza dalle radici dell'esperienza schiavile, raramente si fa emergere una lente di genere, che invece nei miei percorsi di ricerca è risultata fondamentale proprio per capire il significato della categoria di genere nella modernità, proprio ciò che noi oggi concepiamo, concettualizziamo come genere, ha le sue origini nella storia coloniale e nella storia schiavile, perché ciò che è appunto distinto in base al genere, socialmente, politicamente, ma anche proprio come categoria di pensiero, è ciò che è stato appunto definito attraverso quell'esperienza di dominazione razziale che ha fondato il genere come categoria bianca. Provo a spiegarmi un po' meglio. La costrizione di migliaia, se non milioni, di corpi di africani deportati nelle colonie per essere sottoposti a schiavitù a vita, è stata una condizione che ha definito l'essere umano come bianco, contrapposto a un essere non umano, meno umano, subumano, in virtù del suo essere definito nero. In questa divisione razziale il genere come categoria moderna si fonda perché viene riconosciuto umano solo colui o colei che viene riconosciuto come uomo o come donna, e gli schiavi e le schiave che non vengono riconosciuti come umani vengono privati della possibilità di essere riconosciuti come uomini e come donna. Infatti una delle femministe nere che più mi sta a cuore, che è Angela Davis, in Donne, razza e classe, che è un libro che ho avuto la fortuna di poter tradurre in italiano, racconta bene come la costrizione alla condizione schiavile privasse del genere gli schiavi e le schiave, e secondo una a causa della, diciamo, del loro essere costretti a svolgere il medesimo carico di lavoro nelle medesime condizioni, facendo saltare quella divisione sessuale del lavoro che invece ha permeato, ha fondato la famiglia moderna, borghese, bianca, in cui la figura della donna corrisponde a questa figura di madre, moglie, dedita alla cura dei propri figli, allontana dal lavoro produttivo che invece è assegnato all'uomo di casa, all'uomo bianco, e che è il pater familias. Questa struttura familiare viene negata alle comunità schiavili, in cui appunto uomini e donne svolgono la stessa quantità di lavoro. Il lavoro riproduttivo a casa, nelle piccole capanne in cui per poche ore al giorno ci si poteva ritirare, veniva svolto da uomini e da donne in ugual modo. In cui gli uomini in realtà, non considerati come tali, non venivano mai riconosciuti come i padri dei loro figli, perché secondo la legge schiavile solo le donne venivano registrate all'anagrafe come genitori, secondo la legge insomma, al parto, cioè il parto e il ventre sono connessi, e quindi i figli erano solo figli delle loro madri. E tutte queste legislazioni, quindi il tipo di attività a cui gli schiavi e le schiave erano forzati rispetto alla popolazione bianca, il tipo di famiglia che veniva strutturata, ha definito il genere in antitesi alla condizione schiavile, quindi alla condizione dei razzializzati e delle razzializzate. Questo in realtà, se da una parte è la storia all'origine di una sofferenza disumana, appunto, però ha anche plasmato delle forme di resistenza specifica e che oggi nutrono il pensiero femminista decoloniale, nero, intersezionale. Perché? Perché le resistenze delle donne, degli uomini e delle donne, appunto, razzializzati e schiavizzati, appunto condizionati da questa realtà in cui si sono ritrovati ad esistere, sono delle resistenze in cui appunto il genere come categoria razzializzata viene messo in discussione. Provo a diventare ancora un po' più specifica. Ad Haiti la rivoluzione degli schiavi è stata portata avanti grazie a delle figure di condottieri, ma anche di condottiere. le rivolte schiavili hanno visto le prime donne alla guida di eserciti interi, e sono esperienze che spiazzavano dall'altra parte il potere bianco e coloniale, proprio, proprio appunto nel vedere, diciamo, un corpo femminile rivendicarsi però una potenza che in realtà la costruzione bianca del genere negava alle donne. E ancora, in realtà le resistenze schiavili hanno avuto come primi luoghi di origine le cosiddette comunità maroon, in inglese si chiamano comunità maroon, in francese si dice marron, in portoghese si parla di quilombos, e in realtà in italiano quasi è una parola sconosciuta, ma si definiscono cimarroni. Cosa sono queste comunità? Sono le comunità degli schiavi fuggitivi che appunto hanno trovato il modo di ribellarsi alla schiavitù optando per la fuga. E gli schiavi fuggitivi hanno storicamente minacciato il sistema schiavile coloniale proprio perché si andavano a costituire queste comunità di schiavi fuggitivi nei boschi, sulle montagne, in luoghi dove appunto i colonizzatori non erano in grado di intervenire, e in queste dimensioni gli schiavi e le schiave sperimentavano una vita di quella che noi oggi chiameremmo autogestione, auto-organizzazione dal basso, strutturata su dei criteri appunto completamente altri rispetto a quelli del sistema coloniale. E le comunità Maron erano i luoghi in cui una volta arrivati gli schiavi e le schiave, diciamo, ognuno arrivava portando il suo bagaglio di capacità, di risorse, di capacità strategica, militare, e insieme si appunto in questa vita condivisa e autogestita mettevano in condivisione anche le forze per passare poi al contrattacco, cioè tornare sulla piantagione, attaccare il padrone, riuscire a liberare altri schiavi e così via. Se Haiti si è liberata dalla schiavitù è grazie alle comunità Maron, che nel tempo si sono fatte talmente grandi da farsi massa rivoluzionaria. Il femminismo che deriva da queste esperienze è appunto un femminismo che mette in discussione innanzitutto, come vi dicevo, la congiunzione tra l'idea di donna e quella di vittima, di corpo vulnerabile, proprio perché l'esperienza di queste donne è da sempre un'ingiunzione alla resistenza anche in termini fisici, diciamo muscolare. Sono i corpi delle schiave, delle schiave non sono corpi esili e deboli, sono corpi fisicamente capaci di risposta fisica potente, e che appunto hanno trasmesso di generazione in generazione un'esperienza di, sì, direi di parità, di eguaglianza, di assenza di divisione sessuale del lavoro all'interno delle comunità, che di cui io penso che ancora oggi possiamo fare tesoro per capire cosa significa decolonizzare le nostre strutture sociali. Non so se ho provato, se ho dato qualche spunto e se ci sono magari delle domande con cui posso andare ad approfondire. È incredibile in realtà come mi suonano familiari dei discorsi che sono già riecheggiati ieri sera quando abbiamo telefonato ad Andrea Staid. So che è la seconda volta che lo dico oggi in radio, però mi ha lasciato il segno quando parlava proprio di cultura a livello antropologico, come noi siamo mancanti biologicamente di qualcosa e cerchiamo nella cultura e nella tradizione un modo per completarci ed andare avanti. E abbiamo parlato molto anche di quando la cultura poi diventa moralmente inaccettabile, quindi un'abitudine, seppur culturalmente accettata, noi la reputiamo sbagliata. E questa era l'ultima parte che avevi, di cui avevi parlato, me l'ha ricordato molto. In realtà io domande non ne ho, perché mi è sembrato molto lineare, molto lineare, molto chiaro quello che hai descritto, così come me, tra virgolette me lo aspettavo leggendo un po' il capitolo del tuo intervento. Non so se Martina ha qualcosa da dire. No, in realtà no, io rifletterò tutta la notte, credo, su tutte queste cose. Una cosa che abbiamo già chiesto anche alle altre persone che abbiamo chiamato è se avevi tu qualche testo da consigliare per integrare un po' questo discorso. Sì, adesso ve lo do. Ecco, magari una questione che mi sta molto a cuore e che ci tengo a toccare, proprio per capire quali sono i temi centrali del femminismo decoloniale, c'è quella della figura della madre. In parte l'ho toccata, però mi sono resa conto in maniera netta, lavorando sul femminismo decoloniale nero, che quanto in realtà il femminismo occidentale bianco si sia costruito sull'idea che per rifiutare le imposizioni di genere le donne dovessero fare i conti con un ruolo di madre imposte, appunto, quella di cui parlavo anche prima, e quindi come la storia del femminismo bianco si sia costruita secondo l'associazione femminismo uguale rifiuto della maternità, rifiuto del ruolo materno imposto, che ha una sua linearità di pensiero anche per la storia appunto delle donne in Occidente. Eppure, proprio in virtù di quello che invece è stata la matrice schiavile della storia dei neri e delle nere, lì invece vediamo un'esperienza di maternità più che imposta, negata. Prima vi dicevo che i padri non erano riconosciuti e soltanto le madri lo erano, però a ben vedere, su questo bisogna essere precisi, le schiave non erano riconosciute come madri, ma come partorienti, come davvero come macchine da riproduzione, per cui quello che sussisteva tra madre e figlio non era riconosciuto come legame familiare, ma semplicemente come, sì, come un veicolo, nesso di causa effetto, di veicolo per il figlio. Sì, proprio in virtù di questa oggettificazione pesantissima. Peraltro, quindi le madri e figli venivano regolarmente separati a piacimento secondo appunto i comodi ma anche i capricci dei proprietari di schiavi. C'era appunto un diritto di proprietà che interveniva costantemente all'interno delle relazioni familiari a determinarle, senza possibilità di prevedere questa cosa, tant'è che nelle comunità schiavili c'era un po' l'usanza di chiamarsi tutti zio e zia, proprio per avere un po' l'idea che ovunque ti avessero portato avresti trovato qualche familiare, tra virgolette, pronto ad accoglierti. Però è vero che appunto questa questione della maternità è fortissima, e se non c'era se non c'era la separazione concreta tra madre e figli, si sono tramandate storie di aborti autoprocurati, che erano una negazione della maternità nei termini di evitare che il proprio figlio finisse al mondo e quindi finisse al mondo a soffrire tanto quanto sua madre, per cui non era una negazione della maternità, ma un voler sottrarre un potenziale altro essere umano alla sofferenza della disumanizzazione. E così anche la pratica dell'infanticidio ha marcato l'esperienza della maternità di tantissime schiave che appunto hanno preferito dare la morte ai loro figli piuttosto che crescerli in condizione schiavile. Ecco, queste esperienze hanno marcato un rapporto al genere e un rapporto, diciamo, alle lotte di liberazione, in cui la maternità, a ben vedere, anziché essere negata e rifiutata, così come ha portato avanti il femminismo occidentale per diverso tempo, la maternità viene rivendicata. Il diritto a diventare madre diventa il nuovo modo per affermare la propria femminilità negata, la propria umanità negata, in virtù appunto di un genere negato. E quando guardiamo le cose da questo punto di vista ci rendiamo conto come appunto delle esigenze quasi contrapposte vanno a comporre lo spettro della lotta femminista. E questa è una cosa di cui ho imparato a fare tesoro, proprio per fare i conti con un'ansia che spesso abbiamo nel fare politica, anche noi altri in questo presente un po' distopico, ovvero quest'ansia di voler ricomporre le tensioni e le contraddizioni, quando vengono fuori tra appunto i soggetti frammentati delle classi subalterne. Ecco, forse in realtà se c'è qualcosa che ho imparato dal femminismo decoloniale è che se proviamo una certa ansia perché sentiamo che ci sono delle contraddizioni e magari noi ci sentiamo dalla parte privilegiata di questa contraddizione, quell'ansia è sana, va bene provarla. E la questione non è risolverla quell'ansia, ma imparare a tenersela dentro, perché significa che ci sta indicando un luogo in cui poter costruire relazioni in solidarietà, un luogo in cui costruire relazione laddove non era previsto che la relazione esistesse. E quindi non provare a far passare semplicemente un discorso piuttosto che l'altro. Non metterli in contrapposizione, ma lavorare dentro a questa tensione, con tutta l'ansia che genera. Voilà, se posso provare a consigliarvi qualche testo, beh, uno l'ho citato prima perché ci tengo tanto, in effetti in italiano non c'è tantissimo sul lavoro che faccio io ed è Angela Davis, Donne, Razza e Classe. Prima vi citavo Frantz Fanon, Pelle Nera, Maschere Bianche. È un testo scritto da un uomo, appunto, quindi forse vi potreste domandare come mai consiglio un testo scritto da un uomo. C'è anche tutto un lavoro fondamentale da fare sulla maschilità con le lenti del femminismo decoloniale, perché appunto in virtù di una negazione anche della maschilità che ha plasmato i corpi maschili neri. C'è un discorso specifico anche che riguarda appunto la condizione degli uomini neri, che non è in nessun caso riconducibile, assorbibile, omogeneizzabile a un discorso, color blind sulla maschilità. Quando guardiamo la maschilità con le lenti della razzializzazione, possiamo notare che appunto c'è una maschilità bianca che ha permeato il discorso egemonico sulla maschilità e che invece ha fatto dei corpi maschili non bianchi o dei corpi femminilizzati, devirilizzati, incapaci di essere dei veri maschi e dei veri uomini. Per cui sono retoriche come queste che, per esempio, hanno legittimato lo stupro delle donne non bianche, indigene. In tutti i territori della colonizzazione, perché i presunti uomini, gli indigeni maschi venivano considerati incapaci di assicurare la soddisfazione sessuale delle loro donne. Oppure in epoche storiche successive, invece, questi corpi maschili non bianchi sono stati ipervirilizzati, per cui costruiti come l'incarnazione della sessualità selvaggia, incarnazione della predisposizione maschile a compiere violenza sulle donne. Basti pensare anche appunto alle retoriche salviniane che descrivono i migranti che sbarcano in Italia come appunto tutti palestrati muscolosi e un pericolo ambulante per le, tra virgolette, nostre donne, no? C'è ancora questa costruzione molto forte dell'uomo ipervirilizzato, ma l'uomo ipervirilizzato è in un altro modo, ancora una volta, negato come uomo. E Frantz Fanon fa un lavoro fondamentale sulla maschilità nera che ha dato delle basi fondamentali al pensiero femminista decoloniale. Per cui assolutamente tra le letture che sono per fortuna leggibili in italiano vi condivido anche questa. I Giacobini Neri. Di James, più con un taglio storico, in cui non c'è una specifica concentrazione sulle questioni di genere, ma ciò che emerge in chiave di genere è fondamentale, rispetto a quello che appunto già vi proponevo prima. Mi permetto di segnalare, ho scritto un piccolo saggio in un piccolo bigino di femminismo che si chiama Introduzione ai femminismi, in cui ho scritto un piccolo saggetto che si chiama Femminismo Nero e in cui ho provato a rimettere insieme appunto tantissime di queste narrazioni e la produzione filosofica che ne deriva. E spostare sempre sul, anzi, un ultimo spunto, uno sul contemporaneo e uno sullo storico. Un'autrice per me fondamentale è Hawa Thiam, si scrive Hawa Thiam, Hawa Thiam. È una delle femministe che ha fatto gli anni 70, una delle poche femministe nere del giro di Simone de Beauvoir, per capirci, del giro del femminismo francese materialista degli anni 70, l'unica ovviamente che è sparita dalla memoria storica, eppure il femminismo degli anni 70 francese che ha segnato la storia della Francia ha visto quella che il cosiddetto Mouvement des Femmes, Mouvement de Libération des Femmes al centro della scena, eppure ai tempi c'era anche una fortissima Coordination des Femmes Noires, coordinamento delle donne nere che ha appunto, che in realtà ha determinato tantissimo la storia politica degli anni 70 in Francia, di cui nessuno si ricorda. Hawa Thiam è una delle penne intellettuali di questo movimento, che ha pubblicato già negli anni 70. Ne esiste una traduzione in italiano di un libro che si chiama La parole aux négresses, quindi la parola alle nere, in cui a partire da sé appunto le donne di origine africana raccontano quelle che sono le loro questioni di genere in quanto donne, ma in quanto donne nere e tendenzialmente povere perché ricondotte ai gradini più bassi della piramide sociale. Per stare invece sul contemporaneo, in realtà vi stavo per consigliare un libro che però è in francese, per cui quasi mi fermerei. Si chiama Afrofemme comunque, ed è un libro che ha scritto un collettivo afrofemminista parigino proprio sulla sua esperienza di collettivo di donne nere. Ma dato che è in francese e che quindi forse non è accessibile a tutti, mi permetto di segnalare un lavoro di corale pubblicato invece di recente in italiano da 11 autrici afro-italiane, che quindi diciamo, riprende la questione dell'essere donne all'intersezione con la questione di razza, della migrazione e della povertà che strutturalmente colpisce la condizione dei razzializzati in Italia, quindi donne nere italiane che raccontano cosa significa vivere all'intersezione di questi assi di oppressione in questo paese. Si intitola Future, il domani narrato dalle voci di oggi, a cura di Giaba Scego. Bentornati su Radio ZM, ringraziamo le DJ per la splendida musica. E le Marie? Sì, Marti, abbiamo finito la puntata. È stata molto molto molto ricca, direi. Sì, ringraziamo le nostre compagne che ci hanno risposto al telefono. Sicuramente ci saranno altri appuntamenti, stiamo riprogrammando un po' tutto il calendario di settimana prossima. E niente, andiamo avanti con... L'unica cosa è che Jay ci manda davvero tante tracce e io sono molto contento di questa cosa. Adesso le ultime che rimangono le mandiamo in coda per la notte, così i nostri facciamo ascoltatori compagnia. Esatto, se le possono ascoltare. Marti, a parte in crime, vuoi dare qualche consiglio per il domani? Beh, domani secondo me ci sarà un po' di sole in più rispetto ad oggi. E, i consigli però ce li hanno dati le ragazze che sono intervenute, perché ci hanno regalato una bibliografia immensa, secondo me. Quindi cerchiamo questi libri online, se ci sono, alcuni siti li hanno messi a disposizione, se no aspettiamo che le librerie riaprano. E basta, direi. È stato un piacere. Rimanete sintonizzati, ricordatevi di iscrivervi alla pagina Facebook, di collegarvi al canale Telegram e di andare ad ascoltare i nostri bellissimi podcast. Non dimentichiamoci di Instagram. Qua c'è Cigo. Che salutiamo, che sta pompando al massimo la pagina Instagram. A prestissimo. Ciao. Già! Boom! Originales, super internacionales. Escuchamos tu consejo y aprendemos tus modales. Y aunque somos diferentes, a la vez somos iguales. En la misma situación, en distintos lugares. Somos internacionales, sin importar cuántos ni cuáles. tú quieres fuerza, yo tengo pila. Si quieres entrada, ponte a la fila. Yo tengo la grasa, papá. What you wanna know about me? Quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y mayonesa. Ay, escucha, quiero pleno el corazón. Ay, que sufrí, yo tengo el corazón maledijo. Tan solita yo pasé frío. Yo le explico, señor, tú tienes que ser cariñoso. Y es que me besé la piel un buen mozo. Yo tengo miel, no quiero esposo. Tampoco quiero un carro lujoso. Quiero alegría, papá. What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? Hablar y todo contento. Le gusta oír mi dulce lamento. Quieren que estén todos los eventos. Los dejo tumbado al pasar. Soy sirena del desierto. Armo 100 huracanes con mi viento. En el trono y la reina yo me siento. Se te van los ojos cuando lo empiezo a botar. Con mi celulitis y mi fibra grosa. Tú sabes que así estoy más hermosa. Natural me trajo la tierra a mí. Yo tengo la vista hacia el mar. Canto pa' los que me escuchan, pa' los que cada mañana luchan. El amor de mi gente es tan sincero. Tienen en el alma un sonajero. Querido, tengo todo lo que necesitas dentro. Te arranco la pena, no. You need my fiebre inside you. Sé que quieren gozar. What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me, bitch? What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know about me? One thing Nancy can't understand. One me, them a talk about me ambition. So one me, who them a talk about me ambition. Come me say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no no, it's from creation. I told them no no, it's from creation. Bam bam, hey yo, what a bam. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b what a bam bam. Hey, yo, Tommy say what a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come fi nice up Jamaican. So bam bam, say what a bam bam. Bam bam dilam, bam bam. Bam bam dilam, bam bam. Hey, tell me say one thing and see if you understand. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. game.